24 mattino. Buongiorno Simone, sempre Ciro da Nettuno. Ascolta, ma mi sembra aver capito che mio figlio non può andare a dalla ragazza, insomma. Cioè, i fidanzati non si possono incontrare? Mi sembra così di aver capito. Grazie Simone. Mettiamo che abito a Ponte Curone, provincia di Alessandria, Piemonte, e voglio andare a Voghera, provincia di Pavia, Lombardia. Distanza chilometrica 2. Posso andare? Qui non si capisce niente. Colau decide, ma poi non decide lui, perché il comitato esperti che lui, a cui lui deve chiedere, ma che poi nemmeno loro, perché devono chiedere agli enti locali, che poi lo dicono al politico di turno, che lo dice a Roma, che lo dice a te, che non capisci niente. Spezia, ma se non mi sbaglio sei di Roma, ma chi deve timbrare un cartellino? A che ora si deve alzare? Per andare a lavorare. Oh! No, è un'ottima domanda. Come insomma, mi faceva notare giustamente il nostro Giorgio De Luca questa mattina in assistenza in redazione, no, qualche giorno fa, ne parlavamo. Il grande tema di quest'epoca, dei prossimi mesi, sarà il tempo. Impiegheremo tutti più tempo a fare tutto. Oh! Grande tema. Provo a rispondere ad alcune domande per quello che ho capito io, perché come l'altro ascoltatore ci ha fatto notare, insomma, non è proprio tutto chiarissimo. Però, allora, il figlio non può vedere la fidanzata, ok? Su questo ci siamo. Il figlio non può vedere la fidanzata. E incredibilmente, caro ascoltatore, lei ha ragione. Da Ponte Curone a Voghera, 2 chilometri, lei non ci può andare. No, no. Guardate, una perplessità su questo l'avevamo già sollevata nei giorni scorsi, perché, non so, insomma, Milano e Novara fanno parte un po' della stessa partita, se vogliamo, tanto per fare un esempio, Tutta un'area della Lombardia collegata all'Emilia Romagna, che praticamente è una stessa area e che però non si può, di fatto non si può connettere. Tutta l'area della Lunigiana, per esempio, tra la Liguria e la Toscana, che noi tendiamo a considerare fondamentalmente lo stesso posto, e però il confine non si può attraversare. È curioso questo. Detto ciò, la confusione è notevole, è non solamente dalle parti delle decisioni istituzionali. E così, prima ancora di andare alle prime pagine dei quotidiani, vi porto dentro i quotidiani oggi, in questa seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa di questo lunedì 27 aprile alle 7:20. E vi porto dentro con due interviste. La prima è firmata da Francesca Angeli sul Giornale a pagina 8, e la persona intervistata è il professor Andrea Crisanti, ordinario all'Università di Padova, direttore del laboratorio di microbiologia del Policlinico, è l'uomo alla base della strategia utilizzata dal Veneto per combattere il coronavirus. E dunque il titolo qual è? Folle riaprire tutto il paese, tanti casi come 2 mesi fa. Una follia riaprire tutte le regioni insieme, dice Andrea Crisanti a Francesca Angeli. È stato fra i primi appunto a paventare il rischio di migliaia di contagiati, mentre molti suoi colleghi minimizzavano il pericolo paragonando il Covid-19 a una semplice influenzetta. In vista della fase 2, dunque, la sua preoccupazione aumenta, e aumenta proprio per la differenza che in questo momento c'è tra le varie regioni. Meglio scegliere solo tre regioni, dice, tre regioni campione, per vedere se esplodono nuovi focolai. Ma ancora una volta lancia un allarme sul rischio di questo virus. E dall'altra parte, a pagina 9 del Quotidiano Nazionale, invece abbiamo un'intervista firmata da Alessandro Malpelo a Matteo Bassetti, chi è presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva, direttore delle malattie infettive a Genova, che invece, guardate solamente dal titolo, l'emergenza sanitaria è finita, siamo stati i primi a chiudere, saremo gli ultimi a riaprire, forse ci è mancato il coraggio e bisogna smetterla con questo clima di terrorismo. Come capite, due esperti che ci dicono due cose, insomma non è che siano completamente inconciliabili, per carità, perché poi bisogna guardare le sfumature, e che però ci danno due segnali quantomeno che sono diversi. Come capite, anche insomma, elaborare una strategia in queste condizioni non deve essere facile, a parziale discolpa dell'esecutivo. Esecutivo che le cui decisioni dominano ovviamente le prime pagine dei giornali e le aperture, no? A partire dal Corriere della Sera, che parla di una riapertura con regole e divieti. Si riapre, ma non troppo, è il titolo di apertura del Messaggero. La stampa titola con le parole di Conte: l'Italia riapre ma la battaglia non è vinta. La Repubblica: sfida al virus, l'Italia riapre, i vescovi contro il governo, perché c'è tutto questo tema della CEI che ha protestato per la mancata ripartenza delle messe, questione che anche al centro della prima pagina, o meglio in apertura della prima pagina del Quotidiano Nazionale. Conte vara la fase 2, ira dei vescovi, è questo il titolo. E ancora abbiamo il Fatto Quotidiano su questa riapertura frenata, no? Col freno a mano addirittura, dice il giornale, parla di fase 1,5, la falsa ripartenza. Libero ci parla di un Giuseppe Conte che si tiene i pieni poteri, crede di essere il duce, scrive Libero, e La Verità, dai numeri li sbaglia pure, la fase 2 di Conte è un casino. Il Sole 24 Ore del lunedì, distanze, turni e protezioni, così riparte il nuovo lavoro, con un bel pezzo approfondito, ci arriveremo più avanti con Paolo Mieli nel dettaglio, no, di queste pagine del Sole 24 Ore, che a centro pagina anche l'argomento che avete sentito poco fa nel nostro GR24, una controcopertina del nostro GR24, il risparmio da 1,5 miliardi per il settore RC Auto, per l'RC Auto. Iniziamo come sempre da qualcosa di diverso, a qualcosa di laterale, posto che insomma un po' dentro le pagine dei giornali, come vi dicevo, ci siamo già andati con queste due interviste. Allora, cosa dunque? Partirei da una storia dolorosa, e che è l'ennesima storia di violenza sulle donne, in questo caso di omicidio, che avviene all'ombra del lockdown. Vi ricordiamo i dati che sono stati forniti nei giorni scorsi da Dire, che è la rete contro la violenza sulle donne, la rete dei centri antiviolenza, ci racconta di un incremento delle chiamate, dei collegamenti tramite la app e dei segnali di rischi appunto di violenza nei confronti delle donne, tra l'altro con delle difficoltà ad aprire i centri antiviolenza, che sono le difficoltà per tutti i centri ovviamente, che possono essere anche parzialmente di aggregazione in questa fase. E questa storia arriva dal cuore dell'epidemia, da Bergamo. Anche qua andiamo sul Quotidiano Nazionale, uccide a calci e pugni la compagna, con un dettaglio ulteriore: protetto dalla madre della vittima. La storia la racconta Francesco Donadoni, appunto, da Bergamo, altro che banale incidente, come voleva farlo passare. Si era trattato di un vero e proprio pestaggio, un'aggressione reiterata, brutale, al punto da provocare la morte della compagna, avvenuta l'8 marzo, dopo una settimana in coma all'ospedale. Un'altra tragica storia di violenza sulle donne in un periodo di quarantena forzata. Siamo appunto a pagina 16 del Quotidiano Nazionale. Ed è una storia appunto di una violenza perpetrata ai danni di questa donna di 34 anni, uccisa a calci e pugni dal compagno, che è stato arrestato dopo un mese dal delitto. E il dettaglio ancora più inquietante: il fatto che gli investigatori vanno a casa della ragazza, trovano la madre di lei che parla di una caduta. E il suo assassino, che poi ha confessato, Locatelli, che fa lo stesso. Lo zio della vittima, dapprima reticente, inizia a collaborare, piano piano viene fuori la verità. Viviana viveva con il compagno al primo piano insieme alla madre, ma emerge subito che sia l'appartamento al primo piano sia quello al piano terra venivano utilizzati in modo quasi indistinto dalle quattro persone che ci vivevano. E appunto viene uccisa dal compagno, anzi è stata uccisa l'8 marzo dal compagno a Bergamo. La verità è venuta fuori solamente adesso. Un tema che questa vicenda del lockdown, insomma, come dicevamo, ha contribuito a far emergere: donne che si trovano chiuse in casa con quello che è il loro aguzzino, senza possibilità di poter uscire. A pagina 24 La Repubblica ci porta sul tema dell'immigrazione e con una storia che arriva dalla Germania e che in realtà, racconta Tonia Mastrobuoni appunto a pagina 24, riguarda molto noi. Riguarda chi? Riguarda i dublinanti. Chi sono i dublinanti? Sono gli immigrati che una volta arrivati nel territorio di un paese europeo devono chiedere asilo a quel paese europeo. Se nel frattempo si spostano in un altro paese, per esempio arrivano in Italia, si spostano in Germania, generalmente vengono rispediti in Italia. Che cosa succede? Queste sono le norme europee, le norme che tutti provano a cambiare da molti anni. Che cosa succede? Succede che Berlino ha inserito un cavillo per tornare a respingere i profughi verso l'Italia. Perché? Perché i respingimenti si sono bloccati causa Covid-19, racconta Tonia Mastrobuoni. E però, Berlino sta provando a fermare i termini. La foga dei ricollocamenti non si è placata neanche con la più grande pandemia del secolo. Il nuovo spauracchio dei profughi scappati nel paese di Angela Merkel ha un titolo asettico, paragrafo 80,4 del codice amministrativo. Ed è un cavillo che non dovrebbe attirare solo l'attenzione dei rifugiati a Monaco, a Dortmund, a Dresda o a Stoccarda e dei loro avvocati tedeschi, ma anche dall'Italia. Perché nasconde un trucco per rimandare indietro, alla fine dell'emergenza Covid-19, ogni dublinante che si trovi ancora in Germania. Cosa succede? Gli fate un espediente per sospendere il loro diritto di chiedere asilo allo scadere dei 6 mesi o dei 18 mesi canonici previsti dagli accordi di Dublino. Per capire che si tratta di una prassi illegale è sufficiente consultare le linee guida della Commissione europea pubblicate qualche giorno fa sul diritto d'asilo ai tempi del coronavirus. E quindi il 16 aprile Bruxelles ha preso una posizione netta sull'argomento, ribadendo che se il ricollocamento non avviene entro le scadenze, la competenza sul profugo passa al paese che lo ospita e quindi queste competenze dovrebbero passare alla Germania, che sta sospendendo i termini dei processi per far sì che poi queste persone possano essere appunto rimandate in Italia. E a proposito di migranti, nei giorni scorsi abbiamo parlato spesso della questione del caporalato, della questione del lavoro nei campi. Chi sta lavorando nei campi? Chi è che fa arrivare negli scaffali dei nostri supermercati la frutta e la verdura fresca? Erano normalmente gli stagionali. Nel caso peggiore, ovviamente, nel caso illegale, le persone sottoposte a caporalato. La questione del caporalato, guardate che non si è interrotta con Covid-19. Sempre La Repubblica, pagina 13, con Giuliano Foschini, ce lo racconta. Racconta una storia che viene messa in campo da Francesca Pirrelli, procuratore aggiunto del Tribunale di Foggia, coordinatrice del primo pool italiano di investigatori anticaporalato voluto dal procuratore Ludovico Vaccaro. Cosa succede? Succede che nel Foggiano non si sta più nei ghetti, ma a causa Covid-19 si formano dei micro ghetti nei campi. Il racconto parte da una persona, l'ESEC, non lo vedono quasi da 2 mesi, ma i suoi amici non sono preoccupati. Non risponde al cellulare perché non può. Ha mandato qualche messaggio per dire che le cose andavano bene e che forse c'era bisogno anche di loro. In caso si sarebbe fatto vivo lui. L'ESEC tornerà, ma non sanno ancora quando. Dopo il 4 maggio, forse, o magari per la fine del mese, non c'è fretta, tanto il suo materasso in un sottano fuori Cerignola per il momento non lo occupa nessuno. L'ESEC è uno degli schiavi del coronavirus. polacco, da 3 anni vive nella provincia di Foggia, dove lavora come agricoltore stagionale. C'è il tempo dell'uva, quello dei pomodori, ora è quello degli asparagi. Da quando è cominciato il lockdown, i suoi caporali lo hanno preso e gli hanno detto: devi venire con noi, e lui è andato. Troppo pericolosi per i controlli della polizia quei viaggi stipati nei furgoni ogni giorno dalla città alla campagna, e dunque la schiavitù, che già era tale, lo diventa ancora di più con persone chiuse in baracche o in bugigattoli all'interno degli stessi campi nei quali devono lavorare. Una pausa. Mattino. Primi a chiudere e gli ultimi a riaprire. Stiamo per morire. E voi dite pure che Conte è bravo. Complimenti. Ma se in Germania hanno già dato 3 mensilità alle piccole attività e negozianti a fondo perduto. Ma la smettiamo di lamentarci sempre. Ma veramente? Ma siete tutti convinti che se fosse stati voi al governo avreste fatto meglio? Ma per favore. Siamo il classico popolo di allenatori il giorno dopo aver perso il mondiale, sempre. Quello che dice: ma io devo andare dal Piemonte alla provincia di Pavia, ci sono 2 chilometri, posso andare, non posso andare. Quando avevi 17 anni eri minorenne, quando hai avuto 18 anni eri maggiorenne, sono cambiate le cose. Non so se il paragone regge, in tutta sincerità, non so se il paragone regge. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua. Sono eccoci, qua, sono pronto. Eccoci. Allora, iniziamo proprio dal Presidente del Consiglio Conte, da questa fase 2, come il giornale dice, la fase 1 e mezzo, come dice qualcun altro la fase boh, insomma, una fase col freno tirato, come col freno a mano, no? Come dice il Fatto Quotidiano. Eh sì, mi ha colpito anche a me quel titolo, perché il Fatto Quotidiano è il giornale che più simpatizza nei confronti del Presidente del Consiglio e dice: si riparte col freno a mano. Io mi trattengo nel giudizio, nel senso che può darsi che questo modo di riaprire in un paese che ha ancora un alto numero di contagi, un alto numero di morti, sebbene almeno le morti siano in diminuzione, sia il modo più cauto e più prudente, lo vedremo. Comunque si potrà misurare, perché domani è prevista una conferenza stampa del presidente francese Macron, che annuncerà la fine del lockdown quasi totale, e Macron è in scontro con gli scienziati, mentre Conte ha tenuto molto presente il parere degli scienziati. E Macron, sempre che queste indiscrezioni siano confermate, è molto contrario. Quindi vedremo domani e potremo fare un confronto fra le due decisioni. Nel frattempo credo che tutti gli ascoltatori già conoscano, sì, anche attraverso le onde di questa radio, quali sono i provvedimenti, sì, certo, per trovare i parenti senza fare ammucchiate, insomma, sono cose che si conoscono. E se vogliamo un riassunto, ci sono pagine del Corriere della Sera, sono punto per punto, ma anche il Sole 24 Ore ha dato, almeno per la parte economica, oggi ha fatto un numero davvero ultra esauriente. Sì. Trovi? Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Il Sole del lunedì, naturalmente, quindi tiene conto solo parzialmente di quello che è stato annunciato ieri dal Presidente del Consiglio Conte. A me la cosa che ha colpito di più, devo dirti, è questa pagina 4 e 5, che poi è l'apertura del Sole 24. A questo è dedicata l'apertura, no? È una bellissima grafica che indica un po' come dovranno funzionare, no, i luoghi di lavoro nel prossimo futuro. Distanze, orari, igiene, lo firmano il pezzo Marta Casadei, Michela Finizio e Valentina Melis, nel quale raccontano anche con una grafica appunto come funziona il luogo di lavoro, dal parcheggio, capito, dal garage al luogo nel quale arrivano i fornitori, passando per i bagni, la mensa, i percorsi, come si devono fare, alternati e via dicendo. Quindi insomma un buono spunto interessante anche per gli imprenditori, ovviamente, oltre che per tutti noi. Visto che ci troviamo a parlare del Sole 24 Ore, c'è una iniziativa giornalistica del Sole 24 Ore che crea polemiche, ed è l'intervista fatta 2 giorni fa, mi sembra, dal direttore del Sole 24 Ore a Carlo Messina, l'amministratore delegato di Intesa. Che cosa è successo? In questa intervista il banchiere aveva illustrato la sua proposta in 5 mosse per rilanciare il paese e farlo uscire dall'emergenza coronavirus. Uno dei punti chiave è stato il lancio di un nuovo strumento finanziario, un bond sociale in grado di convogliare risorse sulla ripresa. Bond con caratteristiche particolari, rendimenti competitivi, sgravi fiscali, scudo penale per chi trasferisce i capitali dall'estero, e questa è una cosa molto controversa, trasformandosi così, ha detto Messina, da esportatore di capitali in propulsore della ripresa. Sì. Bene, credo che la polemica più importante è stata con un grande personaggio, il presidente di nuovo di Confindustria, designato, perché non è stato ancora eletto, Carlo Bonomi, che ieri è andato a mezz'ora in più la trasmissione di Lucia Annunziata, e leggo da un articolo di Vittoria Puletta su Repubblica, ha spiegato che lui comprende che le banche abbiano necessità di frazionare il loro rischio, però sul rientro dei capitali dall'estero, personalmente, ma anche a nome di Confindustria, si è sempre battuta per coloro che pagano le tasse e non credo, ha detto, che sia questa la strada, il rientro dei capitali dall'estero come uno scudo per chi ha evaso le tasse per comprare i titoli, non è la strada che più mi piace. Avete capito qual è la cosa che c'è sotto? È una sanatoria, sarebbe davvero clamoroso, per cui tutti quei capitali che sono fuggiti all'estero con la scusa del... scusa, con il pretesto, nell'occasione della pandemia, gli si dice: guarda, ti condanniamo, ti perdoniamo, torna in Italia e contribuisci alla ricostruzione del paese. Questo, consentimi una previsione, sarà un dibattito anche per le personalità, perché sia Messina che Bonomi sono due personaggi, forse due personaggi più importanti che ci sono adesso nel sistema economico italiano, almeno tra i più importanti, e questa discussione è una discussione destinata a essere seguita un po' meglio anche dagli altri giornali. La segnalo perché... Se ne parlerà parecchio. Ascolta Paolo, ti vorrei portare un po' sulla parte politica di questa crisi. Perché il fronte interessante è proprio quello, insomma, no? Mentre fino a ieri, fino a venerdì, discutevamo delle spaccature nella maggioranza sul fronte europeo, sul fronte del MES, se certamente queste restano, si vedrà che cosa succede dal lato europeo. E però si sta aprendo qualche incrinatura all'interno della Lega, dovuta anche ai sondaggi. Giornale più vivace a segnalarlo oggi è La Stampa, un articolo di Alberto Mattioli. Malumore, frecciate, fronde, anti-Salvini. La Lega arretra, ora è sotto il 30%. I big stanno coperti, ma a partire da Giorgetti sono preoccupati per il calo. Non è solo un problema di comunicazione, si tratta di visione politica. Che cosa c'è di non detto? Che una parte del mondo politico spera che Giorgetti e il governatore del Veneto Zaia rompano con Salvini e si dichiarino disponibili a partecipare a un governo di unità nazionale, a un governo con Conte, Berlusconi, che già si è dichiarato in qualche modo disponibile a questa impresa, e ovviamente il PD. Però segnalo che c'è un articolo di Maurizio Belpietro. L'ho visto. Sulla Verità, che dice: c'è chi vuole scappaccare il carroccio, si accomodi, e devo dire fa una cosa ragionante, cioè ricorda tutti i tentativi Franco Castellazzi, Luigi Negri e poi Tosi, tutti i tentativi di coloro che, molto corteggiati dagli avversari della Lega, hanno rotto con la Lega e sono finiti obiettivamente in un culo di sacco. Quindi anche questa, come la polemica fra Bonomi e Messina, anche questa questione: si spaccherà o non si spaccherà la Lega? Sì, dicono tutti gli osservatori avversi alla Lega, attenti, dice Maurizio Belpietro, dalla prima pagina della Verità. Sì, sì, sì, anche se lo stesso Belpietro dice sì, ma occhio perché insomma la fantasia dei cronisti gioca a brutti scherzi e quindi anche su questo fronte potrebbe non essere proprio, no, potrebbero però non essere. Però lo prendiamo come un segnale di ritorno a tempi normali. Cioè, esatto, anche questo. Oggi anche questo. Sui giornali si parla un po' meno dei lutti provocati dalla pandemia e si torna a fare costruzioni forse fantasiose di tensioni politiche. Ci sono poi tensioni, come hai detto tu prima, ce ne sono ancora sul MES, su tutte le cose interne dei 5 Stelle, nel PD, però questa è la tensione nuova che tiene banco oggi sui giornali. Sì, anche perché sarebbe la prima crepa all'interno della Lega. Se abbiamo già pronto Carmelo Laricella il traffico, andiamo, sentiamo cosa succede sulle strade e poi torniamo con Paolo Mire e veniamo a tutta la questione messe, la protesta dei vescovi contro le messe vietate. Via. Ed eccoci, caro Paolo. Dunque, le messe, la Conferenza Episcopale Italiana, che subito dopo la conferenza stampa di Conte tira fuori un comunicato molto duro nel quale dice che viene violata la libertà di culto, perché ieri il governo ha deciso, ormai lo sanno tutti gli ascoltatori, però lo riassumiamo, ha deciso che i funerali si possono fare con un massimo di 15 persone, ma le messe no, almeno per il momento no. Per il tempo di Roma questa è la notizia principale, ci dedica l'apertura, ma anche Repubblica, la nuova Repubblica diretta da Maurizio Molinari, fa una parte del titolo principale del giornale: sfida al virus, l'Italia riapre, ma i vescovi contro il governo, la CE inaccettabile in 9 mesi. Addirittura, Libero dice la CE maledice Conte, se ne frega delle messe. Libero è sempre un giornale così più sbrigativo. L'articolo più completo, più esauriente, è un articolo del Messaggero di Simone Canottieri e Franca Giansoldati. Niente messe, la CE protesta, gli esperti fino al 25 maggio, i rischi sono troppo elevati, Conte prende atto e conferma la decisione, al più presto studieremo nuovi protocolli. I vescovi contestano la disposizione, così si viola la libertà di culto del Rio, ascoltiamole. Allora, queste due dichiarazioni, Conte che dice studieremo nuovi protocolli, del Rio che dice mandiamo, che è un esponente cattolico del PD, dice ascoltiamoli, vogliono dire, lasciami fare una previsione, che entro pochi giorni questa decisione verrà cambiata. Sì. Quello che io non capisco è, potevano consultare la CEI prima e chiedere, ma voi nel caso siete disposti a pazientare ancora 20 giorni? E se la risposta era così dura, potevano darla direttamente ieri sera, questa disposizione. Adesso non faranno una gran figura se, come io prevedo, nella settimana entrante cambieranno questa disposizione per le messe. No, c'è un tema che non va sottaciuto, Paolo, no? Ce lo scrive un ascoltatore, dice: buongiorno Simone, le messe sono la più grande concentrazione di over 70 che ci sia, soprattutto nei paesi piccoli. Probabilmente forse c'è stato anche un pensiero di questo tipo da parte dell'esecutivo, nel senso che la frequentazione delle chiese, soprattutto da parte di anziani, soprattutto nei paesi, è molto elevata. Certo, tu hai, l'ascoltatore, avete perfettamente ragione, ma quello che io contesto, e in genere contesto di tutte queste prese di posizioni serali del Presidente del Consiglio, è che sono cose a cui si poteva pensare prima, nel senso che se i parrucchieri riaprono un giorno prima, un giorno dopo, vabbè, insomma, sono cose opinabili, si possono discutere, ma una cosa così importante come il rapporto con la Chiesa Cattolica, le messe devono così importante anche dal punto di vista politico, diciamoci, insomma, no? Perché anche sì, e poi anche per tutte le persone che credono, che pensano che andare a messa, tanto altro si può dire, le messe si riaprono e basta stare 1,5 metri nelle chiese o sul sagrato ad ascoltare la messa e non datevi la mano. Insomma, si possono dare delle indicazioni e trovare un compromesso che sarà, vedrai, quello che verrà trovato, perché sì, a breve, sì, direi di sì. E Del Rio dicono: ah sì, dobbiamo rifletterci meglio, vedrai. Che sì, questa sì, decisione cambierà. Cambierà in qualche modo. Del resto, senti, in tutte le religioni questo ha fatto discutere. Non infatti, ti volevo portare sì, in Israele, no? Eh beh, certo, io l'ho letto questo articolo di Fabio Scuto sul Fatto, che addirittura lì si è dovuto dimettere il ministro, un ministro ultraortodosso, Lixman, che tra l'altro è pure ministro della salute ed è stato molto criticato perché non aveva pronto nessun piano, insomma, comunque non aveva pronti i piani adeguati, e questo ministro, essendo ultraortodosso, come prima cosa ha scelto che le sinagoghe non dovevano chiudere. Apri di cielo, è successo un'ira di Dio, ma siccome si sta facendo un nuovo governo, ne abbiamo parlato più volte questo fra Netanyahu e Gantz, hanno trovato la soluzione che accetteranno le dimissioni e lo sposteranno all'edilizia, sembra. E così lì potrà fare meno danni. Al limite però si occuperà di costruzione delle sinagoghe. Lo citiamo per dire, lo stesso Fatto Quotidiano dedica due pagine, la Chiesa si rivolta ai tempi del Covid, le proposte di vescovi, niente segno di pace, accessi regolati, ma ieri del governo è stato dato questo segnale che li ha raggelati. Vedi, se la ipotizza persino un giornale che la soluzione si trova facilmente, sì, facilmente poteva essere trovata. Sì, sì, sì. Vedrai che quando avverrà si scateneranno proteste dalla parte opposta, di chi dirà: ma perché io devo rimanermene chiuso, non posso vedere il mio fidanzato, il mio compagno, eccetera eccetera, mentre invece le chiese riaprono. Aspettiamo, vediamo il momento nel quale arrivare a questa decisione, che presumibilmente, come dicevi, arriverà. Senti, dato che siamo passati all'estero, ti porterei sulla Cina. Più di una pagina di giornale si occupa dell'influenza, dei tentativi di influenza cinese in questa fase da Covid-19. Sì, la Cina si sta distinguendo come grande manipolatrice, e per la prima volta nel giudizio sulla Cina si sono riunificati Trump, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania. A proposito della Germania, noi siamo più prudenti, diciamolo, l'Italia sulla Cina ha una posizione molto molto più ambigua. Ma comunque ti dicevo, sulla Germania Tania Mastroboni su Repubblica dice in un articolo, sì, molto ben documentato, sì, l'abbiamo raccontato nella prima parte della trasmissione, mi ha fatto molta impressione, anche perché vicino c'è un articolo nella pagina a fianco di Gabriella Colarusso che dice come Taiwan, la Cina non aiutò minimamente Taiwan a prevenire il rischio, e si deve a un medico insonne, di cui si racconta la storia, che la notte del 31 dicembre vide in un forum casi di polmonite da Wuhan, allertò le autorità che si mossero prima di tutto. Ma anche per un paese, non so come chiamarlo, che è una frazione della Cina, un paese che sarebbe stato fratello, la Cina non li aiutò a prevenire, sì, il morbo, e si vedeva questo. Nel frattempo, guarda, ti segnalo, visto che stiamo parlando di questi paesi, pronto? Sì, sì, sì, no, ci sono Paolo. No, vabbè, segnalo anche agli ascoltatori, perché tu non lo farai mai, perché insomma sei un signore, non però lo dico io, sul Corriere della Sera oggi ha un articolo di Paolo Mieri sulle ambiguità italiane nei confronti della Cina, e non solo su quello. Prego, mai basta. Parlerò di me. Lo faccio io. Ti ringrazio. Ovviamente, sabato sovietico per Lukashenko, questo è molto divertente. L'ho letto sul giornale che Lukashenko, il presidente bielorusso, che è un tipo un po' bizzarro, ha voluto fare un sabato sovietico, ha sfidato l'Organizzazione Mondiale della Sanità con un evento di massa, 2,5 milioni di persone nei parchi, per una festa delle campagne, e dice: no, 2,5 milioni, devo essere preciso, 2,3 milioni cittadini sabato ha partecipato a questo evento nazionale, si chiama Subotnik, e vedremo le conseguenze di tutto questo della Bielorussia. Sì. Poi scusami, fammi dare un ultimo segnale di ritorno alla normalità, che in America è ripartita la solita solfa sulle molestie sessuali. Biden, stavolta è sotto accusa Biden, e c'è un assistente che lo accusa di molestie sessuali fuori tempo massimo, sarebbero avvenute nel 1993, le avrebbe messo le mani in posti dove non poteva metterle, ma insomma siamo veramente a distanza. La curiosità che tutti i giornali ne parlano oggi, i giornali americani danno grande risalto, è che la signora che si chiama Tara Reid, questa signora è una supporter di Sanders, non è una trumpiana, è una grande militante al seguito del rivale democratico di Biden. E quindi preparatevi a seguire le storie di queste persone, che poi oltretutto sono molto anziane adesso, sia Biden sia la denunciatrice, fatti di quasi 30 anni fa, denunciati in ritardo da una ragazza, chiamiamola così, dell'ex della sinistra americana. Senti, anche questo segno di ritorno alla normalità. Sì, senti, e ti vorrei portare in chiusura, Paolo, abbiamo pochi minuti, su, visto che abbiamo parlato di Germania e abbiamo parlato di questo trucchetto raccontato a Tonia Mastrobuoni per il quale la Germania si prepara post-Covid-19 a rimandarci indietro i cosiddetti dublinanti, ossia i profughi, però invece in Germania si è aperto un dibattito interessante, mi pare, siamo a pagina 15 del Corriere della Sera, non ti sarà sfuggito. A parlare è il presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, no? Il quale lancia questo messaggio che è molto forte, no? È assolutamente sbagliato subordinare tutto alla salvaguardia della vita umana. È più importante la dignità, che tra l'altro è scritta nella Costituzione tedesca. E però no, apre, se vogliamo, un nuovo fronte anche di discussione, di dibattito. Come no, ma se vuoi c'è di più, nel senso che Schäuble, per coloro che ricordano i dibattiti dei tempi della Grecia 2015, è sempre stato il duro, il falco, quello che metteva avanti le motivazioni economiche, sembrava un uomo senza cuore, lo dico per inciso, Schäuble ha avuto un attentato, era su una sedia a rotelle, e sembrava appunto l'uomo, il grande rivale della Merkel senza cuore. Oggi ha sorpreso anche me l'articolo di Paolo Valentino, ha fatto uno degli appelli più sensati che ho letto durante questi due mesi di pandemia. Un appello a guardare alla dignità umana. Guarda che molti intellettuali, adesso mi viene in mente Mario Vargas Llosa, uno scrittore, premio Nobel, molti intellettuali cominciano a interrogarsi, sì, va bene, adesso noi stiamo facendo omaggi alla scienza, che poi si è dimostrata non infallibile, torniamo alla dignità umana. E se vuoi, non è un caso che tu abbia notato questo articolo, perché c'è un filo sottile che lo lega alla messa, ai temi della religione, della Chiesa Cattolica. Però lascio ai nostri ascoltatori il compito di scoprire qual è questo filo sottile, dignità umana e senso profondo della vita. Grazie Paolo Mieli anche per oggi, noi ci ritroviamo mercoledì naturalmente. Paolo, buona giornata e assolutamente. Buona grazie settimana. Ciao. E buona settimana, ci fermiamo, GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, avremo ospiti Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità per fare un punto su questa fase 2 che inizia e anche i rappresentanti degli enti locali, Stefano Bonaccini della Regione Emilia Romagna ma anche Presidente della Conferenza delle Regioni e Antonio De Caro, Presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e anche sindaco di Bari. A tra poco.